In linea d'aria, tra la sede di Barilla a Parma e Mirandola, uno dei comuni più colpiti dal sisma, ci sono meno di 70 chilometri. Il legame dell'azienda con la sua regione è indiscutibile, come lo è la sua vocazione alla solidarietà. Ma con quel pragmatismo emiliano, evidente nelle parole di Luca Virgilio, direttore delle relazioni esterne del gruppo Barilla. Abbiamo identificato un progetto che ancora una volta vedrà pubblico e privato lavorare insieme per di ricostruzione, ed è un grosso plesso scolastico che ospita circa 1500 ragazzi, forma i ragazzi tecnici del domani, tecnici che lavorano nel mondo poi della meccanica, che lavorano nel mondo della moda, e ricostruire questo plesso scolastico da qui entro il 2014. La famiglia Barilla e la Barilla hanno deciso che contribuiranno in maniera significativa alla ricostruzione di questo plesso. La Barilla non mette in mano soltanto al portafoglio, che è una cosa sicuramente fondamentale per, ma la Barilla vuole anche assicurarsi che poi gli impegni che vengono presi, sia dal pubblico al privato, vengano rispettati e che alla fine quello su cui ci si è impegnati venga realizzato. Cosa che è stata fatta in Abruzzo, nel senso che noi proprio abbiamo seguito i lavori addirittura con le nostre competenze, eventualmente mettendo a disposizione anche fornitori che ci aiutano a costruire le fabbriche della Barilla, e così faremo anche per quanto riguarda il progetto Mirandola. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.